un deficiente mantiene altre donne, non capisce. Quante donne mantiene? Quante donne mantiene? Ma che ti frega? Ma, di frega, quante donne ma non è che non ti frega, è bene che la gente sappia. È giusto che la gente sappia. Ma che gli frega le persone che ascoltano a quest'ora, presidente Boccia, il dottor Squì, che gliene frega del fatto di una signora che c'ha uno che gli ha messo le corna e che sta con l'egiziana? Ma ragioni bene te, ragazzo, te ragioni bene, ma con che c'è bello quei piedi? Brava Luisa, attaccalo, digli che è un cretino. Digli che è un cretino. Certo che interessa la gente come Luisa è stata trattata da questo criminale, diciamo, quello come lo dipinge lei, da questo signore qua che va a mignotte, sta con l'egiziana scorfana. È cazzo, giusto. E poi non gli dai i soldi per mantenersi, gli stacca la luce, gli stacca il gas. Che cazzo, eppure è un mezzo criminale. Ma scusa, hai chiesto aiuto ai servizi sociali, come dice Parenzo, o qualcuno? No, io ai servizi sociali ho detto solo che se sta avvicinando davanti alla porta ti piglia a calcio nel culo, perché non è possibile. Ho capito, amica mia, però se... esigo, non è che esigo, cioè una donna che è ancora moglie, va in queste condizioni e lui se ne sbatte le palle, dei tame, perché bisogna dire chiare e tonde. Diciamole chiare e tonde. Allora, sì, io mi sono andata a fare un bel giretto dentro al tribunale, ho piantato la mia bella denuncia e ho detto: ragazzi, o lo mettete a posto o mi incazzo davvero, perché io sono 3 anni che vivo a Bestia e lui è 3 anni, 10 anni, 20 anni, e fa lo... Ma scusami Luisa, ma i figli non ti aiutano? I figli non mi aiutano perché non lavorano e abitano in casa con lui. Pure non lavorano, amica, ma c'è una persona, lavorano. C'è una persona, dico una, in questo gruppo familiare che lavora, una. Manco bu. Nessuno. Nessuno. E tu non lavori nemmeno tu. Che hai fatto? No, non lavoro più perché ero impiegata a scuola. Ma roba incredibile. Ma perché non ti sei fatta un uomo? Perché non ti sei fatta un uomo? Un'alternativa? Non è da me. Ma una trombatina ogni tanto? Ma manco per sogno. Ma perché? Perché non sono il tipo. Non sei il tipo. Vabbè, Luisa, io che ti posso dire? Ti aiuterò il più possibile. Dacci il numero di telefono di questo signore. Ce l'hai un numero di telefono? No, lascialo stare perché guarda. No, lo voglio rincorrere a questo punto. A questo punto lo voglio rincorrere, questo qua che lascia questa signora in questa condizione. Scusami, ma tu sei preso. Chiamano migranti, gente che attraversa il mare, eccetera. Niente. La signora che c'ha più corna lei di un cesto di lumache che va come quella, adesso è diventato il caso. Guarda che sei strano, che tu forte. Scusami, Luisa, che ha detto che ascolta? Ascolta, non dici. Non ho capito. Scusami. Ascolta, dici? Quello che dice lui. No, ma sta ascoltando. Il Parenzo lì? Me ne frega un Cristo quello che dice lui. Io parlo con te, non con lui. Pure. Ciao Luisa, ciao. Solidarietà. La Zanzara. Allora, caro David, abbiamo l'uomo che non crede mai alle versioni ufficiali. In collegamento dalla Russia, credo a San Pietroburgo. Giulietto Chiesa, buonasera. Credi a quello che si sta raccontando, cioè il terrorismo islamico, sì o no? Guarda, io penso che per fare un attentato, due attentati come quelli di Bruxelles, ci vuole una preparazione e una specializzazione molto rilevante. Non si improvvisano, non sono atti di ritorsione per qualche strano motivo all'ultimo momento, come è stato detto che era una ritorsione per l'arresto del grande cervello che ha fatto il 13 di novembre dell'anno scorso. Tutte queste mi sembrano clamorose sciocchezze. Dunque c'è evidentemente qualche organizzazione molto seria che si chiama Daesh. Di qualche ragazzotto, si chiama ISIS. Certo. Io sono convinto che dietro c'è anche l'ISIS, quando si fa l'asfalto di una strada ci vogliono anche gli operai che sanno usare il piccone e il martello pneumatico. Cioè in questo caso tu dici l'ISIS sono operai? ISIS è uno strumento, così come fin dall'inizio l'ISIS è stato uno strumento di altri. Che puttanate. Che l'ISIS sia uno strumento di altri non c'è bisogno di dimostrarlo. Ma aspetta, solo i cicchi non lo vedono. Allora, di chi? Aspetta un attimo. Ma chiedigli di chi però? Un attimo solo, Giulietto, un attimo solo. Andiamo, cerchiamo. Fai tacere questo cretino che mi sta interrompendo. Anche oggi deve dire, ma io pensavo che Vuoi stare calmo un attimo? Sto chiedendo a Giulietto Chiesa. Il cretino cretino, se tace il cretino, sei tu, io continuo cretino. A parlare. Allora, se no, ma continui a parlare, ma però un attimo, ma Giulietto, Davide, un attimo solo, facciamo finire e poi facciamo voi tutte le critiche che vogliamo. Ma no, critiche, ma di cosa critichi? Dice che chi è stato? Ci vuole tolleranza per qualsiasi idea e per qualsiasi opinione, com'è abitudine in questa casa, chiaro? Poi decido io come, quando e perché. Puttanate, no, tolleranza. Vabbè, d'accordo, puttanate. Tu hai diritto di dire puttanate, hai diritto di dirlo dopo aver sentito quello che ha da dire, però, altrimenti non ha senso. Spero che lo pensi anche tu. Sto dicendo semplicemente che ho visto i filmati di quel gigantesco oleodotto mobile che portava il petrolio in Turchia. Li abbiamo visti perché ce li hanno fatte vedere i droni e gli aerei russi, che li hanno prima filmati e poi hanno buttato giù, hanno incendiato e distrutto 2000 cisterne che andavano. Ma questo per dire cosa? Per dire che chi è che commerciava petrolio con l'ISIS come minimo era un alleato dell'ISIS. Cioè la Turchia. E c'è la Turchia innanzitutto. Poi c'è il secondo elemento, che è l'Arabia Saudita. Chi è che ha pagato? Quanto costa un esercito di 70.000 uomini di beni da pagare, di armamenti, di fucili, di mitragliatrici, di comunicazioni, di viaggi? Vengono fuori miliardi di dollari. Allora, queste sono cifre da bilancio di uno Stato. Ok, dunque gli attentati, gli attentati di Bruxelles sono frutto di che cosa? Di un'organizzazione sovranazionale che vuole fare cosa? Che vuole gettare nel panico l'Europa? Oh, bravo, ma hai tolto la parola di bocca. Una domanda la mia, Lo scopo è quello di azzerare questa Europa miserabile, che deve essere messa al sicuro sotto protezione, visto e considerato che non è capace neanche di resistere ai ricatti che appunto Erdogan gli fa. Azzerare l'Europa per ridurla a cosa? Cioè per toglierci la libertà? Intanto per ridurci la libertà è quello che è già accaduto in Francia, perché subito dopo l'attentato il presidente ha stabilito lo stato del Beh, però è libera la Francia, è un paese libero. Ha cancellato la Costituzione. Cancellato la Costituzione Ha risolto tagliando tutte le libertà democratiche. Ma non mi pare che in Francia vivano in una situazione di privazione di libertà, scusami, Giulietto. Perché se tutte le questioni della sicurezza consentono di arrestare, per esempio, un blogger che ha pubblicato l'unica fotografia del Bataclan dicendo che ha colpito gli interessi nazionali del paese o qualcosa del genere, faccio adesso il profeta. Vuoi vedere che adesso, domani o dopodomani, anche il governo belga farà la stessa cosa? Sospenderanno le libertà democratiche, libertà democratiche, e con la motivazione del terrorismo. Tutta l'Europa sarà spinta a calci nel sedere. Ma succederà anche in Italia? Succederà anche in Italia, secondo te? L'Italia sta sul pericolo di una decisione cruciale, che è quella di andare in Libia oppure di non andarci con un contingente militare. Io ritengo che questa decisione sarebbe catastrofica per l'Italia e sarebbe foriera di nuovi pericoli. Senti, però questa organizzazione sovranazionale di cui parli te, che Parenzo dice che è una puttanata, incredibile. Allora io voglio capire una cosa: da chi è comandata? Siamo sempre sullo stesso argomento di cui abbiamo parlato. La Spectre. Domande alle quali non sono in grado di rispondere. Beh, come no? Se uno dice che c'è una Spectre dietro, però deve sapere chi è, perché altrimenti. Io non dico, io ragiono. Ragiono. Questa è una parola grossa. Questa è una parola un po'. Ragiono. I fatti sono tali che le spiegazioni che ci danno non vanno bene. Questa organizzazione sovranazionale da chi è formata, però? Scusami, quella che avrebbe provocato anche secondo te, secondo una ricostruzione, questi attentati di Bruxelles? Io naturalmente ipotizzo qui perché non ho. Fare? Ci sono 34 morti poche ore dall'attentato triplice di Bruxelles, metropolitane e aeroporto, e dobbiamo sentire la fanta politica di Giulietto Chiesa che da Mosca ci dice che c'è l'aspetto. Te l'ho detto che sei un grande cialtrone. Ma chi ti dice il cervello? Ma sta ragionando su una cosa. Che ti dice il cervello? Che puttana, che disonora la professione. Sentilo. Che stai in. Ah, adesso insulti pure. Ma stai zitto, Davide. Sei un vero morti. Della notizia. Ah, io con te non ci parlo. Io 34 morti, uno deve sentire queste puttanate. Davide, stai fermo. Arrivederci, un attimo, Giulietto, un attimo. I'm a man, I still am. Io ho capito, ti ha dato del figlio di puttana, ma lascialo parlare un attimo. Ma lascialo parlare un attimo. Giulietto, no. Un attimo, ma certo. Quel paese tutte e due, ma certo, ma che c'entra? Ma fanculo cosa? Ma lasciarlo parlare un attimo, no. Lasciagli finire, ma lasciagli dire le follie. Ma lascia finire cosa? Ma lascia finire che cosa? La roba incredibile. Ma quelle stupidaggini lì bisogna sentire. Ma io non ho capito, ma. Possibile mai io che lo mando a quel paese, l'unica cosa che... non sei tu l'unico depositario della verità, ma la verità se ma... quello pensa che ci sia un complotto, un confronto su delle cose, la Spectre e io non so chi c'è, ma puttanate libere, ma non so chi c'è, se mi davi il tempo magari ti facevo dire secondo lui chi c'era dietro gli attentati, secondo lui o no, la CIA dai su, mangiamo stupidaggini, giusto Pescara, vai, giusto. Ciao Giuseppe, buonasera. Dimmi, dai, ti sei fatto dare pure del figlio di puttana, incredibile, oh. Ma cioè, dovresti, guarda, quasi da querela, quasi da querela. Ma figo, un poveretto. Porta in tribunale. Ma che porta in tribunale, poveretto. Io ho chiamato solo per questo. Sì, però amico mio, giusto, tu chiami, però porca la gran puttana. Parla da senza l'auricolare. Hai ragione, l'ho tolto, dai, Giuseppe, non ti incazzare. Allora, io ho chiamato proprio per questo. Perché David Parent è un cretino veramente. Che ha fatto? Che ha fatto adesso? Che ha fatto? Cazzo, questo qui giusto, parere di esclusivamente giusto. Tollera solo esclusivamente le cose che gli sono gradite. Ma... tutto il resto. Ma è così, Parent. Che gradite? Io come ci sono cose che non accetto. Io le stupidaggini non le accetto. Le cose stupidaggini non secondo vere. Te? Secondo te? Ma no, secondo me un conto è confrontarsi. Ma vai a fanculo, me ne frega niente di parlare con questo. Chiese, ma vabbè, chiese, arrivederci, dai. È condivisibile le cose che dice Chiesa. Dietro l'ISIS ci sono potenze economiche forti. Tu non vuoi ragionare perché c'hai quel cervello intriso. Ma figurati, me lo faccio dire da questo qua. Da no, questo qua me lo faccio questo dire. Qua? Ma che me ma ne frega qua? A me di questi? Ma che cazzo me ne ma frega? Quale, ma ho capito, ma che pare c'è che ascolto giusto da Pescara io? Ma perché non devi ascoltare giusto? Ma me ne frega qualcosa di confrontarmi con un imbecille così a me? Ma me ne frega niente. Ma mi interessa qualcosa di giusto da Pescara secondo te? La mia serata va avanti lo stesso senza giusto da Pescara, senza il parere di giusto da Pescara. Secondo tutti, la serata di tutti va avanti lo stesso. Appunto. Sì, però siccome siamo qui, parla con giusto da Pescara oppure manda a fare il culo. Parla con giusto da Pescara, parla pure. In questa situazione gente come te, sì, vero, hai ragione. Un reddito vero. Di cittadinanza, sì, avete accolti sì. Clandestini. Abbiamo accolto, ma ancora di più. Ma chi ha accolti clandestini? Vi aspettavate che vi fossero riconoscenti, sì. Invece vi disprezzano, vi vogliono annientare. Ma e chi? Lo faranno. Chi? Dico, gli islamici. In generale. Fermi, polizia vegana! Polizia vegana! Ti dichiaro in arresto per infrazione vegana. Raggio de veganizzante, fuoco! Signora, scusi, sono della polizia vegana. Lei vedo che sta addocchiando dei pezzi di carcassa, cadaveri di animali. Sì, esattamente, sì. Ma lo sa che questi animali sono nostri fratelli? No, soffrono. No, saranno suoi fratelli, ma miei fratelli. Sì, sì, sono miei fratelli, ma, okay, non si vergogna, signora, no, a comperare. No, proprio per niente, guardi. Sa che la dieta vegana è utile anche al sesso? No, guardi, non mi dica di che sia utile. Infatti dovete prendere vitamina B12 perché non ne avete abbastanza. Ah, la vitamina B12 serve al sesso, signora? Aha. Sono della polizia vegana. Lei mangia carne? Non riesco a farne a meno. Io ho problemi di intestino. No, non voglio entrare nella peculiarità dei suoi discorsi. No, quindi non posso mangiare molta verdura e quindi qualcosa devo mandare giù. I legumi fanno male, la verdura no, troppa. No, i legumi, ma stiamo scherzando? Ma no, signora, fanno benissimo. No, è la carne che fa male. Non è vero. Va bene, grazie signora, lei è stata molto gentile. Gli altri mi cacciano, ma io non faccio del male, perché vede, questa signora è cattiva con me, non ha voluto ascoltarmi. No, è antipatico proprio. Cioè, ma io le sono antipatico, no, sì, ma lei è complice cioè, così può, di un omicidio. Non può dire si vergogni lei invece di dirlo a me. Perché un omicidio, sa come li hanno ammazzati. Mi piace e me la magno, dai, basta, vada dalle altre. Sì, sì. Ci vado. C'è proprio l'odore della morte, non lo sento. Non mi venga sempre. Cos'è che siete autorizzati? Sto semplicemente chiedendo ai signori se. Non deve disturbare i clienti. No, ma ho disturbato no, lei. La signora no. Che sta facendo il video nel frattempo. Ma che ne so io cosa fa questo? Siete insieme? No, assolutamente. Allora, lei deve essere autorizzata come la ragazza, quindi non dovete dar fastidio ai clienti. Ma no, io non infastidisco, resto... ma voi mangiate carne. Voi sapete quanta sofferenza c'è? Sì, ma c'è... non è un discorso che deve intrattenere con qui all'interno. Allora, vi dico un'altra cosa. Chi non mangia carne ha una strepitosa vita sessuale. No, no, seriamente, non è, sì, vabbè, non è uno scherzo. Io faccio anche il triplete. Non deve dar fastidio ai clienti. Io non ho fatto nulla per lasci stare. Non deve disturbare i clienti. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Allora, il sindaco di Cerignola, cari amici, il sindaco di Cerignola, cosa ha fatto il sindaco di Cerignola? C'era l'inaugurazione di una scuola, c'erano dei bambini, a un certo punto uno dei bambini ha detto, secondo lui si è vantato di essere stato bocciato, e quello l'ha massacrato dicendo che se non studia viene lì, lo piglia a legnate, gli ha dato dello stronzo, tutto in dialetto. Sentiamo un po' che cosa gli ha detto. Bucce, lo scopo di casi, a studiare, a disfacundante, ma di Bucce. Lo ha fatto piangere, stronzo, eccetera, eccetera. Davide, io lo chiamerei questo signore. Com'è che si chiama questo qua che non mi ricordo? Si chiama Franco Metta. Franco Metta. Andiamo, vai, proviamo, dai. Pronto? Metta? Yeah. Sì, buonasera amico mio, sono Cruciani, come stai? Dimmi Cruciani, scusa, sto in una riunione. Sì, lo so, ma che è successo con sto bambino? A me lo chiedi. No, ti chiedo, siccome hai detto delle frasi molto pesanti, no? Cioè, ragazzi, ho detto ai bambini. Sì, che hai detto? Siete stati tutti promossi e tutti i bambini mi hanno detto di sì. A questo punto il bambino... Sì. Ha detto in dialetto e sì, con atteggiamento spavaldo, quasi se ne vantasse. Sì. Io sono stato bocciato in dialetto gay e stato bocciato. Spavaldo, quanti anni ha, scusa? Ma avrà 9 anni, 10 anni, non lo so. Sì. A quel punto io in dialetto, sì, per adeguarmi al suo linguaggio, gli ho detto che se continuava a non studiare sarebbe rimasto un cazzone, gli altri sarebbero andati avanti e l'avrebbero lasciato indietro, che bisognava andare a scuola, bisognava studiare, bisognava essere bravi. Ma gli hai detto lo stronzo che sei, hai detto nutrimone rimani, che significa trimone? È il più scemo della compagnia. No, gli ho detto che rimani indietro rispetto a questo e fai il trimone. Per invitarlo ad andare a scuola e a studiare, perché un bambino di 9 anni non lo bocciano se va a scuola. Ho capito, poi gli hai detto anche che gli spezzavi le gambe se vengo a casa tua. Ti spezzo le gambe se non studi. Ho capito, ma ci lo saranno... dico ai miei figli, l'ho detto ai miei figli. Ho capito, non ma i tuoi figli... Non ho spezzato le gambe a nessuno, è ma chiaro, certo, è un'espressione di rimprovero. Questo non c'è dubbio. Scusi, fratello mio. Voi siete bravissimi, siete meglio di me, ma io mi sentito di farlo, mi sono sentito di farlo e gliel'ho fatto. No, ma scusi, fratello mio, io sono col Parenzo, buonasera. Volevo dirle questo, fratello mio, ciao. Io ho una figlia di 9 anni. Se il sindaco della città si fosse permesso di fare quel che ha fatto lei, ma io mi sarei incazzato da padre. Di un bambino ma che si fa bocciare e lo dice quasi vantandosi. Scusami di Franco, stato bocciato, non credi che sia una cosa disdicevole? Franco, non credi che sia una cosa da rintuzzare? Franco, scusami, no, i genitori devo disinteressare. I genitori di questo bambino i genitori di questo bambino li hai sentiti? Ma non lo conosco il bambino, non so chi sia, io stavo in mezzo a 200 bambini. No, ma... ho detto soltanto che deve andare a scuola e deve studiare, se no tutti gli altri lo supereranno nella vita. Ma veramente, in italiano. Veramente gli hai detto strunzo, trimone, te spezzo le gambe se vengo a casa tua, quello può essere rimasto pure scioccato, scusami sindaco. Ma che scioccato, sono rimasto abbracciato con lui per tutta la cerimonia. Che scioccato, sono venuti a distribuire le caramelle, gli ho preso le caramelle e gliel'ho date nelle mani. Ma che scioccato, no, gli ho detto di stare bravo, di studiare, di andare a scuola. Io fossi, con tutti quanti fossi gli altri. Il padre di quel ragazzino, la denuncerei al telefono azzurro, te lo dico subito. Ma vabbè, questa è esagerata, questa è una cazzata, questa è una cazzata, Parenzo, questa è una cazzata. Vabbè, il telefono azzurro, perché uno dice a un bambino vai ma a studiare. Ma davanti a tutti, pensasse ai cazzacci suoi, cioè ai giardini, alle no, iuole, non alle non funziona così, perché quello è un mio cittadino, ma è un ragazzino che è convinto che essere bocciato sia un merito. Ma adesso ha fatto una battuta. Ma tra... battuta, allora, quel è una video battuta, quello... è finito dappertutto. Lo avete umiliato. Di essere stato bocciato, a differenza di tutti quanti gli ma altri. Scusa, che ti senti il tutore? Lo vuoi interpretare così, interpreto. Ma non è che sei tu... ma non è che sei il tutore. Cosa, ma non sei il tutore. Qualunque sia, non c'è bisogno di essere sindaco. Una persona che è adulta, essendo un bambino, che dice una cavolata, gli deve spiegare che non è così che si fa. E gli dice: se non studi ti spezzo le gambe. Dai, su, Franco. Ma, stai, dai. Magari, ma che cazzo gli ho detto? Ma che veramente gli spezzo le gambe? Non ho dato mai un dito su nessuno. Ma ho capito, ma il bambino... ma scusa, ma il bambino... Ma quando sono in prova di tuo figlio, vorrei proprio venire a registrare. Ma io non glielo dico! Ma io... E non ti scappo a dire ti caccio di casa. Poi vai mai cacciato di casa. Ma cacciare di casa e spezzare le gambe sono due cose diverse, ma, scusami. Ma che spezzare... Ma perché è una minaccia concreta? Ma che ne sai, bambino? Ma non distingue il bambino, non distingue il bambino, non distingue! Ha 9 anni! E perché non distingue? Chi te l'ha detto? Ah, se tu dici... tanto bene. Scusa, se... sbagliato. Se tu dici non sono studiato, concetto sbagliato, no, che andare a scuola sia deplorevole, che gli altri erano, ma che ne sai, ha fatto una battuta, ha fatto... e lui era il più furbo di tutti, che era stato un bocciato. Scusa, ha detto... possibile che non capite queste cose elementari, perché state chiusi da qualche parte, non state in mezzo alla strada. Ah, noi non siamo in mezzo alla strada. Lui ha detto una frase, ha detto una frase, tu hai fatto la psicologia di questo bambino. Dalla frase, da una frase che ha detto hai ricavato subito la psicologia, i genitori, sì, ma sì, dai, è che... capisci? E che sei, un sociologo? Perché è un fenomeno, perché è un fenomeno diffuso nel mio paese, è chiaro, è in tutto il mezzogiorno. Ma veramente è l'unico, mi hai detto, è l'unico, mi hai detto. E poi ognuno se ne strafosse di questi bambini, e poi si lamentano quando se li trovano sulle pagine dei giornali che fanno reati. Evidentemente i genitori, allora... Io ce l'ho padre di 4 figli, non mi ha sfiorati con un dito. Non mi voglio arrabbiare con lei. Voglio soltanto, allora, scusami, dirle, voglio soltanto io dire, il discorso che sono fortunato che non abito a Cerignola, perché è un comune, scusami, straordinario, scusami, ma un sindaco, scusami, che va in giro a rompere i coglioni, a fare la morale tu mi a un dici, bambino. Io mi esprimo in un modo diverso, anche se poi vi ho sentito parlare, non è che vi esprimiate sempre con l'Accademia della Croce. Tutt'altro, tutt'altro, tutt'altro, tutt'altro. E quindi, ma che c'entra? Mica volta, fa, quando mica... poi vi scappa di dire cazzo in diretta nazionale, non è che sia il massimo. Ma io capisco che è un fatto di polemica che voi fate, è un tipo, allora, di linguaggio che voi usate. Vabbè, ma è diverso, adesso ma è diverso. Fare tutti i professori, sai lo cosa scrivono? È un fatto mio istintivo, mi sono Franco, Franco, che me ne frega a me del bambino. Come che te ne frega? Potevo fare i cazzi miei mentre li stavo facendo, stavo festeggiando un parco giochi che andavo a inaugurare, che me ne fosse a me del bambino. Scusami, invece, scusa, a me interessa, io mi sono dedicato solo a quel bambino, non a tutti gli altri che hanno alzato il dito, sì, soltanto promosso. Sai, sai cosa scrivono su internet sulle cose? Il sindaco umilia il bambino. Ma lo... che umilia, umilia. Tu la puoi interpretare così quante volte vuoi. Comunque... però non sei obiettivo se non prendi atto di quello che sto dicendo io. No, beh, che lo sto... e di qual era il mio spirito. Ma tanto lo sto prendendo atto che ti sto sentendo. Comunque combatti come un leone. Scusami, combatti come un leone, sentendo, però non lo condividi, non lo condivido di recepimento della mia intenzione. No, ma io lo capisco la tua intenzione, cioè, non credo che tu sia un mostro. Detto questo, secondo me hai fatto una cazzata, che te devo dire. Ciao amico mio, ciao amico mio. Ragazzi, sono a letto con l'influenza. Zanzara Manetta. Parenzo, il mio grande sogno sarebbe pisciare nel tuo lavandino. Allora ragazzi, abbiamo qui in esclusiva radiofonica Michele Pignataro, che è il papà del bambino di Cerignola, caro Parenzo, che è stato secondo me aggredito dal sindaco. Signor Michele, buonasera. Buonasera. Buonasera Michele. Come sta innanzitutto suo figlio? La verità, mio figlio non è che sta tanto male, però non vuole uscire perché ieri i primi ragazzi che l'hanno visto dice: ecco il trimone. Mio figlio moralizzato è girato e è venuto rientrato a casa. Cioè viene ridicolizzato, viene preso in giro dai suoi compagni? Sì, non dai compagni, da altri ragazzi, cioè che hanno oramai hanno tutta la visione sul telefono per guardare queste immagini. Certo. La cosa che ci fa più male è stata questa. Mio figlio è stato visto da tutti. Certo, è stato visto da tutti i ragazzi della sua età di Cerignola. Umiliato. Scusa, Trimone, mi può spiegare bene, perché qui noi trasmettiamo in tutta Italia la parola Trimone. Io ho qui davanti una traduzione della parola Trimone. Cosa vuol dire? Cioè, da quelle parti là è una cosa dispregiativa? Sì, io non voglio essere volgare, ma è dispregiativa. Cioè, che vuol dire esattamente? È una sega. È una figa? Sega. Ah, una sega, cioè praticamente significa sei una pippa, una sega. Bravo, sì, un trimone. Perché un qui trimone. Leggo, è un termine comunemente volgare, tipico della città di Bari o della sua provincia, dove viene parlato in dialetto barese, indica una persona particolarmente stupida, sciocca, ma più propriamente indica l'atto maschile del masturbarsi, cioè che praticamente sì. Dice sei una sega, quando uno dice sei un trimone, sì. Cioè un sindaco... Nel nostro dialetto significa questo. Non è cioè che un sindaco, cambiare. Voi pensate poi, tutti voi che avete appoggiato il sindaco, che avete chiamato, questo qua, senza conoscere questo ragazzo, perché ieri il sindaco ci ha detto che non lo conosceva, gli ha detto sei una sega. Adesso il padre ci sta dicendo che questo qua viene preso in giro. Ma insomma, che ha fatto quando è arrivato a casa? Ha pianto? Che ha fatto? No, la verità non è che ha pianto. Siccome ho un figlio più grande, di 10 anni, sì. Che diciamo lui, siccome noi siamo... di salute, io e mia moglie non stiamo bene, chi ci sta un po' dietro è mio figlio grande. Quanti anni ha il figlio grande? Quanti anni ha? 21 anni. Sì. Allora mi dice: papà, vedi che Francesco l'avrà successo qualcosa, non avrà fatto qualcosa. Sì. Allora mio figlio, spaventato, dice, perché siccome noi diciamo sempre che è cattivo, però questa volta noi non andavamo a pensare una cosa del genere. Sì. Mio figlio, andando su una notizia web, si vede il fratello... Sì. Essere sgridato in quel modo dal sindaco, che io credo che non sia una cosa corretta. Io che non ho ragione, cioè, voglio dire, come lei, voglio dire, potrebbe anche denunciare questo sindaco, perché in fondo lo vuole ha... denunciare? Io la verità ci sto pensando, vedi. Ma è ovvio, perché io economica, allora mi ascolti, sì, sì. Noi siamo una famiglia povera, sì. Come tante famiglie italiane, sì, sì. Allora io ho una moglie con due malattie croniche a vita. Mm. So io come stiamo. Mm. Non ho possibilità economiche, sì. Non ho possibilità di nulla. Sì. C'è qualche buona persona che si è messa a disposizione di tutto, sì. Però io non voglio approfittare dalla buona gente. Mm. Io voglio soltanto che il sindaco, sì. Di Cerignola debba adesso pagare. Se ci vuole qualche spesa mio figlio tramite psichiatrica, quello che ci vuole. Addirittura. Noi vediamo mio figlio che non sta bene. Ma cosa esattamente? Sta giocando a 5 metri di casa, sì. Vede, sinceramente lo dico con il cuore, sì. Sul bene di mio figlio, se vede un gruppo di ragazzi se ne rientra in casa. Eh beh, certo, ma è normale, perché si perché è stato umiliato, andato, è stato umiliato. È stato umiliato, io non sono io da genitore so come sto dentro. Ma dovrebbe chiedere io scusa? Soffro di diabete, sì. Non l'ho avuto mai a 350, perché dice che il nervosismo ti porta il diabete a questo livello qua. Certo. Allora, io sono un ragazzo pacifico, sono un ragazzo disoccupato, non sono un cattivo ragazzo, sì. Ma a me la cosa che mi ha fatto più male, sì. Lui si è ripetuto a Rai 3 oggi dicendo che noi genitori, ha fatto capire, lasciamo i figli in mezzo alla strada. Sì. Quando mio figlio frequenta una parrocchia, ragazzi per bene, ma anche ci sarebbe qualche ragazzo di persone che non sono idonee e non c'entrano nulla i bambini. Sì. Non bisogna giudicare. Scusi, suo figlio perché è stato bocciato? Ha perfettamente ragione questo. Padre, perché è stato bocciato suo figlio? Allora, mio figlio è stato bocciato per tutta un periodo. La situazione familiare che ha, poveretto. Vabbè, fammi sentire, perché è stato bocciato? Allora, mio figlio è stato bocciato è anche un po' colpa nostra, ma non voluta da noi. Siccome io, ripeto, ho una moglie con due malattie croniche, facciamo avanti e indietro, ospedale, Foggia, Foggia, da un primario all'altro primario. Sì. Perché quando, con queste due malattie, quando succede qualcosa dobbiamo andare sempre da loro. Sì. Chi accudiva mio figlio è mio figlio, e è allora? La ragazza di mio figlio. Adesso un po' noi, un po' mio figlio, mamma l'ho fatto i compiti e mi mancava, non faceva un compito, un po' a scuola non era un santo, devo dire quello che è. Ma è vero che si è vantato di essere stato bocciato? Io, se devo dire che mio figlio ha semplicemente risposto, e tu cosa hai fatto a scuola? Sono stato bocciato. Dunque non si è vantato, diciamo. No, per me mio figlio non si è vantato. Perché cosa dovevo dire? Sono stato promosso. No, ma anch'io ho avuto questa sensazione. Cioè che lui, che il sindaco a un certo punto, di fronte a questa risposta di suo figlio, è impazzito e ha cominciato a dare una lezione. Scusami, io ho grande solidarietà. Esprimo solidarietà. Aspetta, padre. Fammi sentire un attimo. Io voi fate il vostro, ma io da genitore, io e mia moglie, se lei guarda mia moglie, sono due giorni, sì, è un cadavere. Certo, ma è vero che lei si sente una merda, qui leggo in questa intervista che io ha fatto. Io mi sento una merda, e voglia. Ma perché? Perché? È perché quello che ha fatto capire lui, che noi genitori lo lasciamo in mezzo alla strada e i figli non accudiamo. Certo, è chiaro. Allora, un genitore cosa si deve sentire detto queste parole? Ma deve chiedere scusa il sindaco? Si aspetta le scuse dal sindaco? Allora, se no, allora ascolti. Allora, per essere un sindaco, lui è anche un avvocato, un legale. Sì, lo so. Sì. Allora, una persona che ha l'educazione, io non sono un santo, però questo mi ha insegnato mio padre, che nella vita si sbaglia. Sì. Però poi bisogna riflettere subito e dire scusa alla persona che tu sbagli. E dunque? Allora, se il sindaco da lunedì fino a oggi non si è fatto vivo, io non posso accettare le sue scuse. Ah, non accetta più le scuse, sì. No, che cosa fa? Mi maltratta, cioè mi ha maltrattato mio figlio, mi dice alla televisione che noi genitori lasciamo i figli in mezzo alla strada, cioè non basta quello che gli ha detto, adesso accusa anche noi di dire che noi mio figlio lasciamo. Chi ci conosce senza nulla togliere nella strada, alla parrocchia, certo. Siamo tutte persone per bene. Per bene. Io ho mio padre 86 anni che usa ancora la frevola, quella antica. Lei si sente un po' responsabile per la bocciatura, immagino di sì, suo figlio, no? Perché magari l'ha seguito per poi. Forza. Ma io perché devo dire, mi devo scudere? Ma è lei l'unico titolare a rimproverare suo figlio, è lei, no? Ma io non ho rimproverato mio figlio, è quello il bello, che mi sento male. Io non ho detto a mio figlio sei uno sfonzo, sei un tribuno, non l'ho detto. Io ho detto soltanto a mio figlio... Francesco, papà, quest'anno è andata, però papà mi devi promettere un po' noi e un po' tu, papà, più di impegno. Benissimo, un attimo. Una vita si può sbagliare, tutti. Bravo, così, giusto. Viva il sindaco di Cerignala, finalmente qualcuno che glielo dice, studiate, viva il sindaco di Cerignala! Grande il sindaco di Cerignola, venisse pure qua a Torbella Monaca a piasti quattro ragazzini del cazzo che girano notte e giorno e non vanno a scuola, rimortacci lui! Il sindaco di Cerignola ha ragione e voi due siete delle merde. Quel sindaco ha fatto bene, ci vuole serietà con i bambini, serietà! Grande il sindacone che bacchetta e giovane bullo! Viva il sindaco di Cerignola e vaffanculo Parenz! Voglio insieme a Peppe Cruciani Valentina Nappi a condurre la zanzara. Ma sa quando odio che facciamo? Ma sai quanti ne chiama una sera per parlare con Valentina Nappi? No, che c'è Parenzo, fa tutto politicamente corretto. Ma falla finita, invita i fighe, dai. Io la sera voglio rilassarmi, voglio sentire la zanzara e voglio che si parla di figa! Figa! Viva la figa! Che Pronto? Sì, porco Angelino? Sì, dica. Sì, buonasera, chiamo dal comune. Sì, che vuoi? Il suo cognome sarebbe da cambiare. Perché devo cambiarlo, scusi? Ma perché un cognome è imbarazzante, insomma, non, è un, non è un bel sentire, onestamente. No, si vergogna del suo, io il mio me lo tengo. Pronto? Sì, buonasera signora, chiamo dal comune, sto cercando porco Giuseppe. E per quale motivo? Posso anticiparlo a lei? E certo. Siete disposti a cambiare il cognome, signora? No, come il comune si permetta, non lo so, a telefonare determinate persone per il fatto del cognome. Che scopo c'ha il comune? Scusi. Il comune cerca di creare una nuova politica d'immagine, signora. Invece di vedere i problemi seri si mette a vedere queste cose. Ma guardi che noi stiamo lavorando come dei pazzi, Mio figlio è orgogliosissimo, ultimamente si è laureato e quindi più orgoglioso di queste gli hanno fatti complimenti. Beh, avere in famiglia voglio dire un porco laureato. Certo, porco, e dov'è il problema? Pronto? Sì, porco Giuseppe? Sì. Io la chiamo... Io la chiamo dal comune. Il suo cognome rientra tra quelli che possono creare, generare determinati imbarazzi e per una questione d'immagine il comune le chiede di cambiarlo. No, grazie. Guardi, signor Porco, che stanziamo anche 1000 euro. No, siccome io sono figlio di Porco Gabriele, non sono... Poi non voglio essere porio, porto, porzio, figlio di porco, no, assolutamente. Io ho una dignità personale e la mantengo. Io, porco, resta il mio cognome, è porco e resta porco, ok? Sì, buonasera, sono Esposito e chiamo dal comune. Parlo col signor Antonio Schettino. Sì. Il comune ha deciso per una questione d'immagine di cambiare alcuni cognomi. E l'immagine c'è, il mio cognome sporcherebbe l'immagine del comune di Nocera Superiore. Io ne vado fiero del mio cognome. Se state scherzando, finimmola qua. No, no, per carità. Mi comunque... sta offendendo. Ho capito. Lei mi sta offendendo. Pronto? Sì, buongiorno, parlo con il signor Schettino. Sono io. Il comune ha deciso per una questione d'immagine di cambiare alcuni cognomi. Il cognome è diventato una vergogna. Il cognome Schettino getta discredito. Ma che c'è a sé? Per uno stronzo, ma quando mai? Ma non esiste proprio. Il ma... comune per questo cambio di cognome offre anche dei soldi. Abbiamo stanziato un fondo di 1000 euro. Io mi hanno trovato a fanculo comune di Napoli, fascista, cominciato. Lei signora sarebbe disposta a cambiare cognome? Il comune per questo cambio di cognome offre dei soldi. Ma sì, buono. Abbiamo stanziato un fondo di 1000 euro. Buono. Allora accetta. Disponibili dubito, mi porti 1000 euro e poi cambiamo cognome. È il suo cognome e tra quelli da cambiare. È una vergogna per il comune di Napoli. Ma vada a cagare, è un brutto, ciao. No, mi scusi, no, non si alteri però. E lei... Sparatevi tutti quanti, non mi rompi di coglioni, testa di cazzo. Ah, beh, la ringrazio, lei è particolarmente...